mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo più. Inganneremo il tempo ed il dolore, sia l'estate che l'inverno. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi, e fermeremo il mondo ogni volta che vuoi, yeah. Perché non so che dire quando mi guardi così, non riesco mai a finire un discorso senza errori. Perché mi fai impazzire quando mi guardi così, mi sembra di capire che voglio solo te in questo mondo, voglio solo te in questo mondo. Se mi cerchi con gli occhi dell'amore, allora sì, mi troverai. Parole semplici ed il sapore di un mattino di primavera. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi, e fermeremo il mondo ogni volta che vuoi, yeah. Perché non so che dire quando mi guardi così, non riesco mai a finire un discorso senza errore. Perché mi fai impazzire quando mi guardi così, amore senza fine. Io voglio solo te in questo mondo, voglio solo te in questo mondo. When I look into your eyes, I will feel so good, cause you make a better day for me. So good, cause you make a better day for me. E fermeremo il mondo ogni volta che vuoi, perché non so che dire quando mi guardi così, non riesco mai a finire un discorso senza errori. Perché mi fa impazzire quando mi guardi così, amore senza fine. Io voglio solo te in questo mondo, voglio solo te in questo mondo. Se mi cerchi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo più. Inganneremo il tempo ed il dolore, sia l'estate che l'inverno.